Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno e benvenuti a voi, grazie per essere in nostra compagnia. In regia la parte tecnica Peter Bescapain, redazione Laura Vanossi. Andiamo subito ai titoli del nostro sommario. Primavera, tempo di allergia. Le scarpe per i primi passi, scegliamole insieme con i consigli di un esperto. Calcio, un minerale prezioso per la nostra salute. La primavera è nell'aria, questa è una buona notizia per molti, ma non per tutti. Diciamo che per circa 6-7 milioni di persone la primavera è una maledetta primavera. Saluteranno infatti questa stagione con il fazzoletto in mano, una raffica di starnuti, occhi rossi e lacrimanti. Se vi riconoscete, restate con noi perché oggi parliamo proprio di voi, di chi è allergico. Oggi con i nostri esperti vi daremo, loro vi daranno tanti consigli e vi aggiorneranno sulle novità. Ma in questa puntata vorrei dare voce anche a chi sta facendo i conti con un raffreddore che dura a lungo, che non riesce a guarire, per aiutarlo a capire se i pollini gli sono diventati nemici. In studio con me il dottor Cristoforo Incorvaia. Buongiorno dottore. Buongiorno. Benvenuto, allergologo agli istituti clinici di perfezionamento di Milano, e è tornato a trovarci il dottor Alessandro Fiocchi, pediatra, allergologo della Macedonio Melloni, con cui quindi parleremo dei nostri bambini. Dottor Fiocchi, benvenuto e bentornato. Grazie, buongiorno. Allora, qualche dato. Le allergie sono in aumento, questo lo leggiamo, lo sappiamo, lo vediamo anche, ce lo raccontano amici e conoscenti che ci raccontano appunto improvvisamente, ecco, sono certo. Diventato allergico. Io partirei da qui, chi ne fa maggiormente le spese? Ma i dati degli ultimi anni di epidemiologia effettivamente dimostrano un aumento progressivo delle allergie, soprattutto per quanto riguarda la rinite, un po' meno per l'asma, che riguardano i bambini. Anzi, a questo proposito forse il dottor Fiocchi certo. preciserà meglio, ma c'è questo studio recente di pediatri pubblicato sulle più importanti riviste di pediatria che prevede che addirittura si arrivi a una prevalenza superiore al 50% negli anni a venire, no? Quindi piuttosto allarmante. Per quanto riguarda gli adulti c'è un incremento invece abbastanza moderato, ma che porta a prevalenze dell'ordine del 10-15%, che poi danno quelle cifre che diceva lei. Ne fanno più le spese gli uomini o le donne? Ci sono delle differenze? No, o non guarda in faccia al sesso? Non apprezzabili, no. In altri campi di allergie sì, c'è una prevalenza femminile, solo allergia a farmaci, ma per quanto riguarda pollinosi no. No, non guarda, i pollini non guardano in faccia no. a nessuno. Dottor Fiocchi, il dottor Incorvai anticipava i dati di questo studio: allergie in aumento nei bambini, e d'altra parte in ogni momento della vita si può diventare allergico. Ma nel bambino a che età inizia a manifestarsi? Ci sono dei fattori scatenanti? I genitori dei bambini che diventano allergici a pollini di solito sono messi sull'avviso di questo dal fatto che il bambino ha prima di questo altre manifestazioni allergiche. Può essere un bambino che ha avuto una dermatite atopica, per esempio, oppure sì. un bambino che in occasione di raffreddori o di tosse ha avuto una bronchite asmatica anziché una bronchite normale. Però i primi segni si possono manifestare per i pollini attorno ai 3-4 anni di vita mediamente, ma sono soprattutto i bambini dell'età scolare, gli adolescenti che hanno la cattiva sorpresa, avranno nei prossimi mesi la cattiva sorpresa di accorgersi che quelli che prima erano degli oggetti per loro indifferenti sono diventati dei pericolosi nemici. Se volete intervenire 800-24-0024, i messaggi come sempre al 349-238-6666. Dottor Fiocchi, ci sono quindi delle avvisaglie, ma ci sono dei sintomi che possono, dei gesti che possono aiutare i genitori ad avere il sospetto che il bambino soffra di allergia? Come possiamo guardare il nostro bambino? I genitori più avveduti scoprono che il bambino è allergico tante volte da piccole cose. Per esempio, se parliamo di rinite, il raffreddore allergico prude. E allora ecco che il bambino, magari anche piccolo, si sfregherà il nasino da destra a sinistra oppure dal sotto all'insù con la manina in modo compulsivo. Un genitore può pensare che questo bambino abbia sviluppato un tic. In sì. realtà non è un tic, è un'abitudine legata alla sua allergia. Come effetto di questo si può creare anche una piccola piega sul lobulo del naso, cioè proprio sulla parte estrema del naso, una piega orizzontale. Quando lei, Laura, vede una persona con questa piega sul sì. naso, senza essere un'allergologa, gli può dire: ma tu soffri di allergie, e ci azzecca 99 volte per succede. E si fa anche bella figura. E si fa una bella figura. Dottor Fiocchi, è vero che anche il dall'alito del bambino, un alito un po' pesante, cattivo al mattino, cosa non frequente, no? Nei bambini soprattutto piccoli, può può creare il sospetto che il bambino stia diventando allergico, sia allergico? Eh sì, e i genitori tante volte li sgridano perché dicono non ti lavi bene i denti, oppure dicono hai mangiato pesante, niente di tutto questo. Magari i pediatri gli dicono hai l'acetone, niente sì. di tutto questo. È la rinite che fa ristagnare secrezioni nella parte posteriore del naso, dove hanno l'occasione di infettarsi, e queste sovrinfezioni danno un cattivo odore che si esprime come alitosi. Un altro segno molto tipico di questi bambini sono le occhiaie. Le occhiaie, che non, uno dice il bambino di città, ma potrebbe essere un bambino allergico, anche perché i bambini che vivono in città e sono allergici ai pollini hanno un rischio maggiore, la vivono ancora peggio la loro allergia, perché c'è questo mix esplosivo tra inquinamento e pollini che in qualche modo peggiora sensibilmente la qualità di vita di questi bambini, dottore. Sì, l'interazione è davvero omicidiale, perché l'inquinamento, specialmente quello da micropolveri, da una parte rende più probabile diventare allergici ai pollini, e così i bambini di città, anche per questa ma per una serie di altre ragioni, sono più frequentemente allergici ai pollini dei bambini di campagna, che è un po' controintuitivo, perché certo. normalmente si dovrebbe aspettare che quando c'è un grande contatto c'è una grande allergia. L'altro effetto che fa l'inquinamento è quello di scatenare, a parità di allergia, più crisi di asma. Quindi se un bambino vive in un ambiente inquinato, a parità di esposizione ai pollini avrà più probabilità di avere un accesso asmatico anziché una semplice rinite. Dottore Incorvai, il dottor Fiocchi con il suo intervento ha dato delle strumenti ai genitori molto utili per riconoscere la rinite allergica. Certo. La diagnosi naturalmente la farà il medico con i test allergologici, ma il genitore intanto si può fare un'idea, creare un sospetto. Dia anche lei una mano ai nostri ascoltatori, per gli adulti. Ci sono delle indicazioni per capire un po' la natura dei nostri starnuti? Beh, generalmente, appunto, se passiamo poi a esaminare i genitori, cioè gli adulti, è chiaro che loro hanno una maggiore capacità di riconoscere quelli che sono i sintomi, e quindi arrivano poi per la loro interpretazione, no? Una volta era comune che noi vedessimo adulti dopo 10 anni, 15 anni di sintomi, adesso invece è normale vederli quando hanno debuttato l'anno precedente, se non addirittura nella stagione, no? Sì. E chiaramente i sintomi sono gli starnuti, il naso che colla, il naso chiuso. La durata è l'elemento determinante, perché per le pollinosi precoci, soprattutto quella da cipresso, che non riguarda tanto la zona, la Lombardia, ma altre parti d'Italia sì, è addirittura proprio invernale, dicembre, gennaio, quindi lì si pensa a raffreddori comuni che non si risolvono, che perdurano. Ancora quelle da betulace, che tra l'altro è in corso adesso, sì, siamo. Cominciando a febbraio, anche quello può essere scambiato con un raffreddore comune. Poi invece una durata prolungata è quella che induce a sospettare, dice ma non sarà un'allergia? La soluzione poi la si ha facendo i test allergologici. Teniamo presente che non tutte le forme di raffreddore prolungato risultano poi positive ai test allergologici. E allora? Perché, e allora ci sono delle forme di riniti non allergiche che coprono grosso modo un 15%, quindi 85% saranno positivi ai test, ma 15% no. E sono poi esistono tutta una serie di sottoforme su cui è inutile addentrarsi, ma diciamo la gran maggioranza, facendo i test allergologici e poi facendo l'allergologo la correlazione tra durata dei sintomi e positività, perché va detto che al dottor Fiocchi può capitare senz'altro di vedere un bambino con i test per un solo allergene, cioè si chiama il monosensibile. Crescendo la cosa diventa sempre più rara e l'adulto quasi mai è monosensibile, quindi avrà diverse positività che vanno interpretate alla luce della nota durata della pollinosi. Non vanno mai fatte decisioni sulla base dei soli test, perché certo. si sbaglierebbe di sicuro. Quindi ci vuole l'occhio clinico, un colloquio con il paziente approfondito, una storia e i test. I test e una loro interpretazione adeguata. Restate con noi allora, raccontateci come vi preparate all'ora X all'incontro con i pollini e confrontatevi con i nostri esperti per avere indicazioni per vivere meglio questa maledetta, come cantava la Gocci, primavera. 824 0024, questo è il nostro numero verde, i messaggi al 349 238 6666. Una mela al giorno. E adesso cambiamo decisamente argomento, parliamo dei piedi dei nostri bambini, dei piedi piccoli, dei bambini che iniziano a camminare, a muovere i primi passi, che scarpe dobbiamo mettere? È una domanda che molte mamme si pongono e allora io ho pensato di invitare a trovarci il dottor Antonio Memeo. Buongiorno dottore, bentornato. Buongiorno Nicolette, grazie. Responsabile della struttura dipartimentale ortopedia e traumatologia infantile del Gaetano Pini di Milano. Dottor Memeo, chissà quante volte si sarà sentito fare questa domanda. Il mio bambino inizia a camminare, che scarpe devo mettergli? Sì, diverse volte, praticamente tutti i giorni almeno 10-15 volte. Questa è la sedicesima. Esatto. Va bene, e allora noi siamo qui, pronti per sentire che cosa ci risponde. Fino a un anno sicuramente le scarpe non hanno nessun bisogno di essere indossate, perché comunque il bambino Non cammina e non appoggia, e quindi non ha bisogno, si usano le babucine di protezione e basta. Dopo l'anno, praticamente quando inizia la deambulazione, si possono usare qualsiasi tipo di calzature se il bambino non ha problemi di piede. Quindi se non ha avuto problemi precedenti può indossare qualsiasi scarpa, l'importante è che sia una scarpa che non gli costringa il piede e che gli consenta un appoggio comodo. Chi più spende meglio spende, quali caratteristiche devono avere le scarpe, le prime scarpine? Sì, sicuramente la prima caratteristica deve essere quella che i materiali devono essere dei materiali che consentano una traspirazione del piede, evitare i problemi di sudorazione che già nel bambino molto piccolo sono più frequenti che non nell'adulto, quindi questa è la caratteristica fondamentale. Secondo, deve avere un appoggio solido sul pavimento, ma altre grosse caratteristiche, un contrafforte abbastanza sostenuto e nient'altro di più. Quindi allacciate devono essere queste, sì, allacciate, oppure per comodità soprattutto dei genitori possono essere anche con le chiusure col velcro adesivo, che vanno bene lo stesso. Magnifico. Senta dottore, con lei abbiamo parlato più volte di piedi dei nostri bambini, abbiamo capito che il piede piatto nel bambino nei primi anni di vita è fisiologico. Sì, assolutamente sì. Ecco, fino ai 3 anni in mezzo non c'è alcuna preoccupazione. Non dobbiamo preoccuparci di queste frittelle. No. Senta dottore, però i plantari quando si mettono, a chi si mettono? Allora, i plantari se si mettono si devono mettere nei piedi che hanno un problema, quindi sicuramente prima dei 5 anni è sconsigliabile usare qualsiasi tipo di plantare. Dopo i 5 anni, quando c'è quella che viene chiamata sindrome pronatoria, che altro non è che quello che classicamente era chiamato piede piatto, il plantare può dare un sostegno alla volta mediale e quindi può essere un ausilio, ma non è il plantare quello che cura il piede deve essere sviluppato muscolarmente, quindi il plantare è solamente un piccolo ausilio che sostiene la volta del piede e aiuta nella sua appoggio sul terreno. Comunque se ne parla dopo i 5 anni. Sicuramente prima dei 5 anni, a meno che il piede non ci siano, avuto certo, dei problemi patologici veri, non ce n'è nessuna necessità. Fino ai 5 anni si possono quindi mettere senza problemi scarpe da ginnastica? Quelle di buona fattura hanno già un plantare normoconformato all'interno e quindi scarpe da ginnastica. In casa vanno benissimo le calze antiscivolo per evitare il contatto col pavimento, favorire l'utilizzo della muscolatura plantare da parte del bambino. Dottor Memeo, io la ringrazio, la lascio alla 17ª mamma che oggi le chiederà che scarpe devo mettere al mio bambino. Va bene, grazie anche a voi e buona trasmissione. Buona giornata. Grazie, a presto. Pronto soccorso. Starnuti a raffica, naso colante, occhi rossi e gonfi, fazzoletti a portata di mano, ci siamo, l'allergia nell'aria e si fa sentire. Fatevi sentire anche voi all'800-24-0024, il nostro numero verde a disposizione, i messaggi al 349-238-6666, in studio con me il dottor Fiocchi che si occuperà dei nostri bambini. Piccoli e anche meno piccoli, no? Fino agli adolescenti, li affidiamo a lei, dottor Fiocchi. Bene, ce li distribuiamo così. Sì. Mentre il dottor Incorvaia, i nostri ascoltatori dai 18 anni in su, sì. Va bene. Ultimamente l'età, il cutoff è 18 anni. E infatti, sì. Vede che siamo informati. Abbiamo Grazia da Roma, buongiorno. Buongiorno, è un piacere ascoltarvi. Grazie, grazie. Allora, io sono una new entry, nel senso che non ho mai sofferto in passato di allergie. Ora mi pongo il dubbio perché è da fine gennaio, non so bene da quando, insomma, ma da fine gennaio che ho un raffreddore che a fasi alterne non è mai finito e ha dei peggioramenti, sì. Quindi mi sorge il dubbio di essere incappata in una nuova situazione che non so bene come affrontare. Insomma, grazie, si è sentita chiamata un po' in causa, certo. Infatti abbiamo detto si può diventare allergici in qualunque momento della vita, assolutamente, L'importante è sapere dove vive. E ci chiama da Roma. Da Roma. E grazie, lei vive lì. Sì, io sì. vivo a Roma, però spesso sono in viaggio per lunghi periodi. Ad esempio, dicembre e parte di gennaio l'ho passata in Sicilia, frequentemente vado a Padova. Insomma, si muove un po' lungo lo stivale, però non riesce a venire a capo di questo raffreddore. Il Lazio è assolutamente una delle aree interessate dalla polinosi da cipresso, che in effetti debutta almeno nel Lazio di solito a gennaio, in sì. alcune regioni anche a dicembre, quindi è fortemente probabile che la signora si sia sensibilizzata al polline di cipresso, e anche perché la durata da gennaio fino a oggi è francamente esorbitante per un raffreddore comune. Quindi la cosa da fare effettivamente è fare i test allergologici, che presumibilmente dovrebbero risultare positivi per il polline di cipresso. Tra l'altro non è raro in questa pollinosi che poi ci sia la fatidica monosensibilità che dicevamo prima, quindi che risulti positiva solo al polline di cipresso, perché è una caratteristica di questa pollinosi. Ecco, quindi a Grazia potrebbe anche andare bene. Potrebbe anche andare bene, anche perché poi potrebbe fare le cure adeguate negli anni a venire. Di cui noi parleremo. Certo. Grazia, quindi il suggerimento del dottor Incorvaia è di fare questi test per capire l'allergene che le provoca questo starnuto. Il dottor Incorvaia ha fatto un'ipotesi, potrebbe trattarsi del cipresso, un'ipotesi dovuta al fatto che il cipresso proprio si manifesta, la polinosi da cipresso, dall'inizio in quel di periodo, gennaio. Certo, e nell'area dove vive. 824-0024, andiamo a Pescara, ci chiama Maria. Buongiorno Maria. Buongiorno, grazie a voi di questa opportunità che ci date. Allora, io ho sentito la trasmissione dall'inizio e il professore parlava di una dermatite. Io innanzitutto ho un bimbo di 3 anni e mezzo. Sì. Sì. Ha una dermatite atopica, l'ho scontrata poco tempo fa andando dal dermatologo, che aveva queste chiazze nelle gambine, e quindi devo comunque idratarlo ogni giorno, altrimenti la cosa peggiora. Sì. In più ha questo perenne raffreddore, sempre il naso che cola, purtroppo lui non si vuol far pulire, sembra una lotta per farsi pulire questo nasino, e ultimamente anche ogni tanto gli lacrimano un po' gli occhietti, quindi probabilmente potrebbe essere allergico. Grazie Maria. Dottor Fiocchi. È molto probabile che il suo bambino sia allergico. Penso che, soprattutto se la dermatite è insorta precocemente, intendo dire prima del primo anno di vita, il suo pediatra le avrà già fatto fare delle prove allergiche. Se non è così, bisognerà procedere a farle, esattamente come ha detto il professore Incorvaia per la signora, l'ascoltatrice di prima, perché anche nei bambini piccoli le prove allergiche possono essere fatte. Questa è una cosa che i nostri ascoltatori devono sapere. Perché infatti è anche importante. Sotto l'anno di vita è opportuno ed è necessario fare i test allergici appena il sospetto si manifesta. Il mio più piccolo sensibilizzato aveva 5 giorni di vita. 5 ed aveva giorni già, di... aveva già un'allergia all'uovo. Per tornare al bambino della signora, direi che una volta che ha fatto le prove allergiche saprà da quali nemici si deve difendere, e il pediatra, l'allergologo pediatra, le suggerirà gli appropriati provvedimenti. Siamo tornati insieme, oggi parliamo di rinite allergica, ma se avete un dubbio sulla natura del vostro raffreddore, un raffreddore che magari si associa ad altri sintomi, quale prurito, occhi che lacrimano, un senso di pienezza alla testa, chiamateci, perché i nostri esperti, ne abbiamo due, uno per i bambini e uno che si occuperà di noi grandi, sono a vostra disposizione all'824-0024. Adesso, prima di dare voce alle vostre telefonate, andiamo a sentire le ultime notizie che arrivano dal mondo della ricerca, che sono commentate per noi dal professor Remuzzi, che è coordinatore delle ricerche del Mario Negri di Bergamo. GR Salute. Il calcio, non quello che si gioca allo stadio, ma quello che assumiamo con la dieta, potrebbe avere un effetto protettivo nei confronti di alcuni tumori. I partecipanti allo studio erano persone tra i 50 e i 70 anni, che sono stati seguiti a partire dal 1990. Nel corso degli anni, più di 50.000 persone di queste hanno avuto un tumore. I più frequenti sono tumori della prostata, del seno, del polmone, del colon. A queste persone è stato chiesto con un questionario di descrivere le loro abitudini alimentari. Ebbene, le persone che mangiavano cibi poveri di calcio avevano una maggiore probabilità di avere un tumore di quelli che mangiavano più calcio. La cosa interessante che viene fuori da questo studio è che la protezione dal cancro è soprattutto affidata all'assunzione di cibo contenente calcio, piuttosto che dall'uso di supplementazione di calcio in pastiglie. Come sempre in questo tipo di studi, gli autori suggeriscono cautela nell'interpretare i risultati e noi dobbiamo aggiungerne altra. Non è detto che i dati ricavati da una popolazione grande, ma comunque selezionata per partecipare a questo studio, si applichino necessariamente alla popolazione generale. Tra brufoli e indice glicemico potrebbe esserci una relazione fastidiosa. I ricercatori hanno preso 50 maschi, adulti e ragazzi, tra i 15 e i 25 anni, tutti affetti da acne. E li hanno seguiti per 12 settimane. Alcuni di loro seguivano una dieta ricca di alimenti ad alto indice glicemico. Questi sono la pasta, il pane e i cereali zuccherati, mentre gli altri mangiavano cibi ricchi di proteine e a basso indice glicemico, cioè il pesce, il pane integrale e la frutta. Le persone di questo secondo gruppo, al termine dello studio, avevano una netta riduzione dei sintomi dell'acne rispetto agli altri ragazzi. Primavera, tempo di allergie, ma questo inverno così rigido gioverà agli allergici facendo ritardare un po' la stagione dei pollini oppure c'è poco da sperare? Giro questa domanda al dottor Alessandro Travaglini, ricercatore all'Università Tor Vergata di Roma e coordinatore della rete italiana di monitoraggio in aerobiologia. Buongiorno professore, benvenuto. Grazie, buongiorno a lei e agli ascoltatori. Allora, possiamo tirare un sospiro di sollievo? Potrebbe questo inverno giovare agli allergici il fatto di ritardare un po' l'inizio della primavera? Direi di no. Peccato. Purtroppo. Quindi perché non possiamo tirare un sospiro di sollievo? No. Ma qualche sternuto in più? C'è da tirare sul naso, nel senso che la pioggia soprattutto, oltre che il freddo, ha, come dire, ritardato gli effetti su chi è allergico durante il mese di febbraio principalmente, che vede o dovrebbe vedere una fioritura abbondante del cipresso e delle altre piante che appartengono alla sua famiglia. Il problema è che la primavera sta avanzando e siamo tutti contenti in maniera inesorabile. Certo. E tutta l'acqua che è caduta sul terreno darà maggiore linfa alle piante, quindi in realtà c'è da forse aspettarsi un effetto di sommatoria tra ciò che è in ritardo e ciò che arriverà puntuale. Quindi ne pagheremo un po' gli interessi, con pollini a go-go. Direi di sì. Senta, prima di salutarmi, mi tolgo una curiosità. I temporali primaverili puliscono l'aria e quindi sono una manna per gli allergici, perché uno dice piovuto finalmente, no, l'aria adesso respiro, oppure si tratta solo di un sollievo temporaneo, perché anche in questo caso si pagano poi gli interessi? Dunque, il temporale e tutte le precipitazioni in genere hanno un effetto di pulizia dell'aria, questo lo sappiamo bene anche rispetto al problema delle polveri sottili, dei PM10 che sono in aria, e quando piove la città, come dire, viene un po' lavata. Sì. Tuttavia sono noti in letteratura dei casi in cui proprio in seguito al temporale si è verificato uno shock osmotico di alcuni pollini che rilasciano poi in atmosfera gli allergeni, quindi in qualche caso ci sono stati segnalati dei pazienti che hanno avuto in realtà dei problemi, sono abbastanza limitati. L'impressione generale è che quando piove stiamo tutti meglio, noi allergici. Noi allergici, perché lo è anche lei? Già. Bene, mi spiace per lei, ma bene, perché tra l'altro gli allergici hanno a disposizione dei siti in cui vengono fotografati, proprio viene fotografata la situazione. Io vi rimando al sito ilpolline.it, in modo che i nemici sono ben individuati e si sa perfettamente la situazione, vero professore? Sì, il bollettino settimanale che mettiamo online sul sito appunto dell'AIA permette a chi è allergico e ai medici che accompagnano il disagio dell'allergico di calibrare meglio l'uso di farmaci, che chiaramente vanno sempre prescritti dal medico, mai ricorrere alla fai da te in questo caso. E poi si ha appunto il polso della situazione sul territorio, l'inizio della fioritura, quando si raggiunge il picco e la tendenza. Chiaramente leggere il bollettino e seguire anche le previsioni meteorologiche permette di completare l'informazione. Quindi anche se io so che per esempio per il prossimo weekend ci aspettiamo un incremento della fioritura perché la settimana è stata bella, se però durante il fine settimana, speriamo di no, dovesse essere prevista una precipitazione abbondante, chiaramente l'allergico non ne sentirà gli effetti. Allora, lei a che cosa è allergico? Mi scusi, tanto per farmi un po'... Alla paritaria, quindi una pianta che qui a Roma fiorisce per molti mesi l'anno. Quindi... Diciamo che il disagio lo uso in positivo per fare meglio il mio lavoro e quindi stare più attento all'informazione che diamo. Grazie per essere stato con noi, buona giornata. Grazie a voi, buona giornata. Andiamo a Grazia che ci chiama da Bergamo. Buongiorno Grazia, benvenuta. Buongiorno, io volevo chiedere, non so se questa cosa poi può essere inerente. Io ho mia figlia ha 14 anni ed è allergica alle graminacee, ai pollini, parietaria. Solo che lei è una grandissima golosona di miele e io non glielo do molto volentieri il miele perché non so se questa cosa può influire. Lei se appena vede un goccio di mamma posso prenderlo? Ha importanza questa cosa? Può essere collegato oppure posso tranquillamente dare il miele? Accontentare la ragazza e darle il miele. Dottor Fiocchi. La ringrazio di questa domanda, è molto interessante. Diciamo che non è frequente che il polline contenuto nel miele sia un polline allergenico e questo perché generalmente i polline che danno allergia sono quelli che sono progettati dalla natura per volare nel vento e quindi vengono prodotti da piante che non hanno fiori. Le piante che invece hanno fiori sono progettate dalla natura per avere un polline che si attacca ai piedini delle api e viene da loro disposto. Quindi generalmente il polline che è nel miele è un polline che non è allergenico per il semplice fatto che non viene respirato ma distribuito per un altro circuito. Tuttavia ci sono alcune reazioni segnalate a polline contenuti nel miele, rare, e soprattutto il miele, che è percepito come un alimento molto sano per ragioni che a me restano completamente oscure da grandi numeri di persone, contiene molto spesso un acaro che si chiama varroa, che è un contaminante delle api, dei nidi d'ape, al quale si possono scatenare delle reazioni allergiche molto severe. Quindi il consiglio è... Se la ragazza lo vuole, glielo dia, ma proprio se lo vuole, perché bene il miele non vedo quanto possa farne. Allora andiamo invece a Perugia, ci chiama Rita. Buongiorno Rita. Buongiorno. Non so, mi dica lei, perché non so se affidarla al dottor Incorvaio o al dottor Fiocchi, io ne ho qua due a disposizione. Sì, non saprei. Ecco. Allora, io ho una rinite allergica da medicamento, esattamente da deltarinolo, che ho usato in maniera poco intelligente una ventina di anni fa, e quindi mi ha bruciato le mucose. Solo che adesso io non credo che sia soltanto una questione di medicamento, ma credo che sia una questione di polline, perché da un annetto a questa parte il naso mi gocciola d'improvviso e poi è sempre una cosa proprio tipo acqua, non è proprio muco, è proprio acqua, e queste gocce a volte mi cascano così all'improvviso. Come se fosse un rubinetto aperto, Rita. Esatto, non faccio in tempo neanche a reggerle con la mano, non con l'infazzoletto, perché non arrivo neanche a prenderlo. E ho sentito che hanno un sapore estremamente salato. Quindi, allora mettiamo subito al lavoro il dottor Incorvaia. Per lei, dottor Incorvaia. Allora, per prima cosa mi piacerebbe sapere perché lei aveva usato così tanto deltarinolo. Perché 20 anni fa non mi avevano detto che non lo potessi usare. No, ma aveva già sintomi di rinite, quindi lo usava per una rinite. No, lo usavo per il raffreddore. Ah, per il raffreddore, quindi lo usava non continuamente ma a cicli. Non continuamente, però ogni volta che mi veniva il raffreddore io usavo questo deltarinolo in maniera esagerata. E comunque è noto che effettivamente la rinite medicamentosa possa dipendere da questi farmaci vasocostrittori, eccetera. Se usate in modo rovino proprio la mucosa. Per quanto riguarda gli sviluppi attuali, certo è possibile che si possa essere sviluppata una pollinosi. Anche in questo caso bisognerebbe vedere bene la durata, perché soprattutto poi quando si dispone di più di un anno di osservazione E poi i test allergologici, che quelli insomma ci dicono se realmente si è sensibilizzata a qualcosa, cioè se la sua è diventata una rinite allergica, perché il sintomo in sé per sé del rubinetto aperto, no? Sì. Noi lo chiamiamo rinorrea acquosa, sì, può essere presente nelle rinite allergiche e non allergiche, quindi non è discriminante. Poi il test dice la durata da correlare eventualmente, come abbiamo appena sentito prima dal collega Travaglini, che il calendario dei pollini, quindi ambientare i sintomi rispetto alla durata dei pollini, è il risultato dei test. Farei un saltino al nostro consiglio di lettura e poi torniamo a parlare del nostro naso, della nostra rinite, dei nostri starnuti, per capire l'origine, soprattutto quando arriva una diagnosi, dopo aver fatto i test, che cosa si può fare per alleviare i sintomi ed evitare il rischio che la rinite evolva in asma. Grazie all'iniziativa di Internet Bookshop oggi potete ricevere a casa il libro che si intitola Ginnastica posturale, esercizi e consigli per conquistare una postura corretta. Per ricevere questo libro a casa dovete essere il primo ascoltatore e inviare un'email a esserebenessere@radio24.it col titolo del libro, i recapiti, quindi il vostro numero di telefono, e di postura parleremo proprio domani, quindi se avete qualche acciacco, se vi sentite un po' gobbetti, curvi, domani è una buona occasione per rimetterci un po' in equilibrio. In collaborazione con IBS.it. Ci chiama Mauro da Arezzo, buongiorno. Mauro? È caduto Mauro, abbiamo Walter da Torino, buongiorno Walter. Buongiorno. Buongiorno, senti, io volevo chiedere, no? Un mio figlio che ha 17 anni, da una quindicina di giorni gli è data fuori una dermatite atopica diagnosticata dal dermatologo, no? Sì. Ma molto accentuata. Sì. Io l'ho portato appunto dal pronto soccorso e mi hanno prenotato questa visita. Il dermatologo mi ha detto di curarlo, no? Fargli passare questa dermatite e poi fare i test allergologici. Sì. Io volevo sapere innanzitutto quali sono i test più attendibili e poi anche se è più opportuno farli in pieno sfogo di questa dermatite o dopo. Oppure è meglio far passare questa dermatite e poi effettuare i test dopo. Certo. Perché il pronto soccorso subito mi hanno detto di non prendere antistaminici perché è meglio farli quando la malattia è in pieno svolgimento, no? Allora, il dermatologo invece mi ha detto lo curiamo e poi facciamo i test. Ecco, quindi uno non sa che cosa diverse. Fare. Sentiamo il parere dei nostri esperti, dottor Fiocchi e poi dottor Incorvaia. Dottor Fiocchi. La dermatite atopica insorta a quell'età può essere certamente una manifestazione di allergia, i test vanno fatti. Il più appropriato inizialmente è lo skin prick test, il test cutaneo che si esegue con una leggerissima scarificazione completamente indolore e immediato nella sua risposta e che qualsiasi allergologo le può fare. Io sarei d'accordo di farlo quando la dermatite è un poco rimessa e la ragazza è senza farmaci, perché questo naturalmente diminuisce le interferenze con il test. Se questo non succede, oppure se si vogliono dei completamenti, allora il pediatra o l'allergologo che lo vedrà vorrà prescriverle poi un dosaggio delle IgE specifiche che si chiama ImmunoCAP ed è un dosaggio sul sangue che valuta la presenza di anticorpi contro i diversi pollini nel caso della sua ragazza. Dottore Incorvaia? Facciamo un rapido consulto. Sì, no, posso solo aggiungere a quanto già detto con molta precisione il professor Fiocchi che le prove eventualmente possono riguardare sia gli alimenti, cioè i prick test con gli alimenti, così come anche gli allergeni ambientali, no? Poi certo. È possibile per esempio un acaro, possibile anche un polline, effettivamente in pediatria non ci è sta. Affatto raro, questa è sul limite, 17 anni, sta per diventare adulta. Comunque i test da fare sono quelli. Allora io direi, se siete d'accordo, di venire alle terapie. Abbiamo cercato di trovare un'origine, no? Una causa dei nostri starnuti, adesso cerchiamo di capire che cosa deve fare l'allergico, perché la terapia va sicuramente cucita su misura, come obiettivo da un lato di alleviare i sintomi, no? Che sono in qualche modo rendono più difficile anche la qualità di certo. vita, no? La concentrazione, c'è molta stanchezza, però dall'altro devono anche evitare che la rinite evolva in asma. Dottore Incorvaia, starnuti e naso che cola, che cosa si fa? Dunque, la qualità della vita è fondamentale perché è il risultato, la qualità della vita correlata alla salute non solo della malattia ma anche delle terapie che si fanno, sì. no? E quindi, per esempio, con gli antistaminici di vecchia generazione che facevano dormire, sì, certo, si andava da padella alla brace, perché comunque la qualità restava cattiva. Effettivamente gli antistaminici di seconda generazione, quelli che ci sono adesso, sono il primo gradino della terapia che viene suggerito nella rinite allergica, in particolar modo in quella da pollini, quella stagionale. Ci sono antistaminici per formulazioni locali da spruzzare nel naso o da mettere negli occhi come colliri. Nella maggior parte dei casi si tratta di compresse, quasi sempre in un'unica somministrazione giornaliera, e quindi molto comodi. Diciamo che riescono a controllare i sintomi in una ottima percentuale di casi. Quando è predominante l'ostruzione nasale, ecco, cioè il naso chiuso, allora lì può arrivare il loro limite e subentra quello che è il secondo gradino terapeutico, cioè i cortisonici per via inalatoria, sì, quindi da spruzzare nel naso e basta, da spruzzare nel naso, perché i colliri negli occhi meglio di no. Chiaramente usati in modo topico con quantità che sono in microgrammi, i temuti effetti collaterali ai cortisonici non ci sono. Va detto che invece bisognerebbe proprio mettere al bando l'uso di quei prodotti iniettivi, ritardo, intramuscolari, che sono ancora molto venduti e sono efficacissimi e quindi per questo vengono usati, ma che poi si associano davvero quindi a tutte le ricadute. Alle iniezioni che permettono di controllare i sintomi, ma è molto meglio controllarli spruzzandoli nel naso. Dottor Fiocchi, una terapia simile va bene anche per i bambini? O ci sono delle novità, dei distinguo da fare, delle precisazioni? Assolutamente simile lo schema. Per i bambini le novità che ci sono in questo momento sono un cortisonico topico assolutamente super topico che si chiama fluticasone furoato, che è stato commercializzato nella seconda metà dell'anno scorso e che quindi fa un po' il suo debutto per la pollinosi di quest'anno, che avendo il vantaggio di uno strumento di somministrazione molto molto morbido, evita quel piccolo problema che spesso succede nei bambini allergici quando spruzzano spray nasali, cioè che hanno il sangue dal naso. Sì. Questa è una cosa che è più frequente nei bambini che negli adulti. Quindi un cortisone gentile. C'è un cortisonico gentile che si dà una volta al giorno. E poi le grosse novità riguardano i vaccini, l'immunoterapia specifica. Ecco, noi stiamo chiudendo la nostra trasmissione, abbiamo ancora un minuto, ai vaccini dedicheremo proprio una puntata a parte, ma... è troppo tardi adesso per pensare al vaccino, dottor Incorvaia? Per le betulacee sì. Per le graminacee siamo proprio su tempi limiti, perché si potrebbe cominciare, la terapia si chiama costagionale, cioè perché è chiaro che se oggi io vedo un paziente allergico il vaccino glielo devo chiedere, non è disponibile in farmacia. Quindi certo, se però mi arriva in 15-20 giorni posso ancora farlo. Certamente potremmo fare quelle delle pollinosi più tardive, quelle da composite, quella da ambrosia che arriverà addirittura a settembre, no? Perché comunque sarebbe buona norma iniziare il vaccino qualche mese prima dell'arrivo del polline. Dottor Fiocchi, torneremo sul discorso perché abbiamo pochi secondi. Vaccini anche per i bambini? Vaccini per i bambini assolutamente sì, ora sappiamo che sono sicuri anche al di sotto dei 5 anni e siccome i vaccini modificano la storia naturale della malattia, questa ha le sue radici nell'età pediatrica, è l'età in cui in assoluto funzionano meglio. Allora, dottor Incorvaia, grazie per essere stato grazie con noi, dottor Fiocchi, tanto noi ci sentiremo comunque presto, intanto io vi do appuntamento come sempre domani dopo il GR delle 11. Vi aspetto, ricordate che avete un appuntamento con me, intanto buona giornata. Essere e benessere.